Job 24. Buon lunedì 2 novembre da Job 24. Oggi in primo piano uno strumento strategico per trovare il primo impiego, per conquistare un nuovo posto, il curriculum vitae. Ne parliamo perché ci sono delle novità riguardo che arrivano d'Oltralpe. I francesi, infatti, da domani sperimenteranno il cosiddetto curriculum anonimo, un curriculum cioè che non riporta il nome, l'età, il sesso, la provenienza geografica del candidato. Già qualche anno fa in Francia venne avanzata la proposta di introdurre obbligatoriamente per legge l'anonimato nelle candidature. Si voleva così eliminare ogni discriminazione e dare a tutti le stesse possibilità di arrivare al colloquio. Tramontata forse la possibilità di un provvedimento vero e proprio, adesso il curriculum anonimo verrà sperimentato per 6 mesi da un centinaio di aziende. Staremo a vedere se sortirà gli effetti desiderati. Nel frattempo nel nostro paese poco è cambiato intorno al curriculum vitae e ai canali per diffonderlo. Per ora l'importante è stilarlo bene. Allora, per tutti gli interessati, ecco il decalogo del curriculum vincente. 1. Personalizza il tuo curriculum. Tieni ben presente a chi lo stai mandando e per quale lavoro lo stai mandando. 2. Cerca di individuare le qualità più importanti che desideri evidenziare nel tuo curriculum. 3. Esponi e presenta le tue qualità in modo da valorizzarle al massimo. 4. Ricordati sempre che devi fare una proposta e non chiedere un lavoro. 5. Redigi un curriculum diverso di volta in volta a seconda delle diverse proposte. 6. Imposta il tuo curriculum in una pagina e mezzo, e chiudilo sempre con la liberatoria. 7. Prepara una lettera di accompagnamento di massimo 10 righe e firmata. Nella lettera chiarisci gli aspetti del tuo curriculum vitae che desideri valorizzare. 8. Cura l'ortografia e fai in modo che il tuo curriculum sia schematico e leggibile a colpo d'occhio. 9. Non inviarlo a tappeto, ma seleziona con cura i destinatari rispetto alla proposta che ti interessa. 10. Quando devi inviarlo, scegli il canale adatto a seconda delle situazioni, via mail, per posta o a mano. Queste le regole base per stilare un buon curriculum. Chi volesse approfondire questi aspetti può affidarsi al libro La guida del sole 24 ore al curriculum vitae di Alessandro Madori. Segnalo anche un altro manuale che può rivelarsi utile e che comprende molti altri aspetti della ricerca del lavoro, che è La nuova guida al lavoro di Monster.it, l'edizione 2010, da poco uscita in libreria, di Silvia Zanella. E prima di salutarci vale la pena ricordare che anche da noi il curriculum può essere in formato video. Ormai esistono dei portali che raccolgono i video dei candidati e mettono in contatto domande e offerta. Uno di questi si chiama UCV, ce ne parla il presidente Davide Malaguti. Nella selezione del personale si stima che ogni 15 persone viste a colloquio se ne inserisce una. Dalle stime che abbiamo fatto noi con UCV, ogni 3 persone viste se ne inserisce una, quindi lei capisce bene quelle che sono le ottimizzazioni. Qualcuno sostiene che il formato video possa essere discriminatorio, nel senso che ancora una volta si privilegia l'immagine e in qualche modo chi ha una bella presenza rispetto a chi invece non ce l'ha. Ma più che presenza, io la metterei su questo piano. La persona oggigiorno ha sempre più a che fare con quelli che sono dei mezzi multimediali, quindi la capacità di relazionarsi con persone sia a livello aziendale che a livello extraaziendale diventa determinante. Ciò non toglie che poi i candidati sono profilati. Ad esempio, se noi stiamo cercando un'amministrativa, la persona è profilata per fare quel lavoro. Dopodiché, in base a quello che sono le capacità di comunicazione verbale e non verbale, che poi si estrinsecherebbero anche durante un colloquio vis-à-vis, non è che sia discriminatorio, perché anche nel momento in cui una persona si presenta a un colloquio queste cose vengono fuori. Senta, non che sia facile stilare un curriculum in forma tradizionale, anche in quel caso occorre informarsi, occorre redigerlo con cura, però registrare un video curriculum può essere particolarmente complicato per i giovani e per i ragazzi. Ma più che complicato, è una cosa che pian piano si impara attraverso quelle che sono anche le nostre indicazioni che sono presenti sul sito. In breve, in tempi radiofonici, ci spieghi come si registra un buon video curriculum? Basta essere se stessi, questa è la cosa più importante, anche perché nel momento in cui si va a fare un colloquio poi fisico all'interno dell'azienda, i responsabili della selezione del personale sono molto preparati, quindi se si finge, se si è troppo preparati o artefatti all'interno di una videopresentazione, questo lo si scopre. Ecco allora il sito del portale UCV, www.ucv.eu. Al nostro sito radio24.it sarà invece possibile riascoltare questa e le altre puntate di Job 24. È tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Roberta Pellegatta, a domani. Hi-ho, hi-ho, hi-ho, andiamo a lavorare.